Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Benvenuti a Ferry Boat, insergante traghettatore. Questa puntata la dedichiamo alla mafia. È partita da Roma la carovana antimafia. Sono 96 giorni, migliaia di chilometri di viaggio attraverso le regioni italiane. Promossa da Arci, Libera e Avviso Pubblico, giungerà il 4 giugno a Corleone, che ovviamente è un nome triste, difficile, che ricorda chiaramente i grandi personaggi della mafia. Fra i capi carovana ci sarà anche Don Luigi Ciotti. Restiamo in tema di mafia, parliamo questa volta di quello che si sta facendo nel mondo delle scuole grazie alle iniziative di un'associazione no profit solidaria. Si sono chiuse le iscrizioni al premio Libero Grassi, quasi 100 scuole hanno aderito al bando che aveva come titolo Liberiamoci dal racket. Ne parliamo con Salvatore Cernigliaro, il presidente di Solidaria. Sì, buongiorno, siamo molto soddisfatti di questo risultato che abbiamo conseguito quest'anno, perché significa aver raddoppiato la partecipazione delle scuole al nostro concorso. Quest'anno è un anno particolare perché ricordiamo il ventennale dalla morte di Libero Grassi, dal suo sacrificio, e quindi era importante riuscire ad avere questo risultato. Cosa devono fare gli studenti delle scuole per partecipare a Libero Grassi? Devono disegnare, scrivere, fare degli spot? Quest'anno abbiamo proposto 4 sezioni diverse. Possono partecipare con dei banner per essere inseriti nei siti internet, oppure con delle lettere al caro estortore, oppure con sceneggiature di spot audio e spot video. Ma parliamo dell'edizione dell'anno precedente, Cernigliaro. Chi ha vinto il premio Libero Grassi e da dove arrivano le scuole che partecipano al concorso? Le scuole che arrivano da tutta Italia. Devo dire che quest'anno abbiamo una diffusione davvero molto capillare per tutto il territorio. L'anno scorso abbiamo avuto una scuola di Roma che ha vinto, tra l'altro una scuola particolare perché era l'Istituto di Sordi, e quindi è stata davvero una iniziativa molto, molto bella avere questo loro successo, e poi una scuola di Modena che ha partecipato con un bellissimo spot. Ricordiamo che il premio Libero Grassi è promosso anche dal Comitato per la Sicurezza e la Legalità di Confcommercio. Grazie a Salvatore Cernigliaro, e parliamo di una bella iniziativa che si registra nel mese di marzo, proprio durante tutto il mese di marzo a Milano, dove tutti i martedì e i giovedì dalle 14.30 alle 18.30 i commercialisti milanesi assisteranno gratuitamente il no profit. Dalle 14.30 alle 18.30 in piazza 25 aprile sarà possibile consultarli. Vi ricordiamo che a Milano ci sono più di 400 associazioni di volontariato. E c'è un'altra associazione che si occupa di Eco Solidari, quindi sempre nel campo del no profit, che ha intrapreso una originale iniziativa nel campo della comunicazione per raccogliere fondi. Sciarpe Fairtrade, che sono proprio il marchio che garantisce i prodotti Eco Solidari, sono sciarpe disegnate da 14 fra i designer più importanti d'Europa, da Fulton a Schwab. Queste sciarpe sono il prodotto ovviamente in edizioni limitate e sono vendute nei negozi di Fairtrade. Abbiamo finito per oggi, vi ricordo che per segnalare le vostre iniziative potete scrivere a ferrybot@radio24.it. Ferrybot va in onda alle 6.50 e alle 13.55 del sabato, l'edizione della settimana invece va in onda la domenica alle 6.50 e alle 14. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Valeria Bernardi in regia.